Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È stato consegnato oggi a Milano il premio Transport Achievement Award dell'OCSE, che ogni anno premia le città che più si sono distinte per le politiche nel settore della mobilità e dei trasporti. È un premio, insomma, molto prestigioso che il capoluogo lombardo ha ricevuto per la cosiddetta area C, ovvero la congestion charge, la tariffa introdotta per chi entra in macchina all'interno della cerchia dei bastioni, che in pratica delimita la zona centrale della città. Ne parliamo di tutto questo con l'assessore alla mobilità, ambiente, metropolitane, acqua pubblica ed energia, Francesco Maran. Buonasera Maran. Buonasera a voi. Senta, allora, intanto per i non milanesi, qualche numero: quanto è estesa l'area C, quanto si paga per entrare? L'area C è estesa, appunto, come diceva lei, nella cerchia dei bastioni, che è il centro storico della città, sono 8 km quadrati ed è la zona più servita dai mezzi pubblici d'Italia. Per entrare in macchina si paga 5 euro ed è una zona dove ogni giorno entrano oltre 500.000 di persone con i mezzi pubblici e circa 90.000 in automobile. Questo ci ha permesso di indirizzare lo sviluppo del centro della città verso una progressiva pedonalizzazione e riduzione del traffico. Ecco, senta, ricordiamo tutti le proteste quando l'area C fu attivata. Ora, appunto, è tempo di bilanci, l'OCSE evidentemente ritiene che il bilancio sia positivo, per cui proprio le chiedo, insomma, anche qui qualche numero che renda conto, insomma, di quello che è accaduto dall'introduzione di questa congestion charge. Come è cambiato il traffico? Che cosa è cambiato nel centro di Milano e anche intorno al centro? Beh, intanto il traffico nel centro di Milano si è ridotto da quando fu avviata l'area C di circa il 28%. E questo tutto sommato, dice, uno paga, e te credo che è diminuito, no, il traffico. Però ci sono stati tanti altri effetti sistemici, no? Sì, anche perché poi questo si lega al fatto che anche gli abbonati del trasporto pubblico sono cresciuti di oltre il 20% in questi due anni. Il fatto che il centro della città ha avuto una crescita esponenziale delle aree pedonali dopo area C, molte delle piazze della città, l'ultima è stata Piazza Castello, sono state pedonalizzate in questi due anni, proprio sfruttando il fatto che c'era un po' meno necessità di spazio per le auto e per la sosta delle auto, esattamente. Al contempo le risorse che ha prodotto il provvedimento, perché come ricordava lei l'ingresso costa 5 appunto euro, fa circa 25 milioni di euro l'anno di entrate che vengono utilizzate per il sistema di trasporto pubblico locale di Milano. Che tra l'altro, leggo qui, ha anche aumentato la velocità media di percorrenza, e anche questo è intuitivo, si tolgono un po' di auto, i tram, bus che viaggiano insieme. Tram intanto arrivano più facilmente in maniera puntuale e questo anche perché la velocità commerciale è effettivamente salita. Senta, riduzione, e qui invece forse tocchiamo un po' un tasto dolente, riduzione delle emissioni, riduzione degli inquinanti? Allora, dobbiamo essere realistici, un provvedimento non solo del centro della città, ma in generale solo sulla città, rispetto al PM10 può produrre pochi risultati, perché il problema del PM10 è di tutta la pianura padana e non solo della città di Milano. Ciononostante va anche segnalato che per varie ragioni, in parte climatiche, però anche in parte dovute alle politiche che dopo anno si sono succedute, il 2013 è stato il primo anno nella storia di Milano in cui viene rispettato un parametro ambientale. Quale parametro, mi scusi? Il fatto che il valore annuale del PM10 per la prima volta è stato sotto il limite di 35, che è quello previsto. Dopodiché i giorni di sforamento sono ancora troppi, c'è un problema di picchi, quindi non bisogna né cantare vittoria né sedersi assolutamente, però non si deve neanche pensare che il problema ambientale sia impossibile da affrontare, perché i miglioramenti esistono anche in pianura padana e anche a Milano. Tra l'altro, noi abbiamo affrontato il tema delle polveri sottili, quelle più dannose sono decisamente i PM01, quelli ancora più sottili, e quelli sono invece localmente rimangono, non girano come PM10, per cui come dire, l'effetto probabilmente è anche un po' più forte se si andasse a vedere i PM01, per esempio. Noi abbiamo fatto un calcolo sul black carbon, che è appunto la parte più sottile del PM10, e lì si è dimostrata una riduzione anche del 30%. Ecco. Senta, per una volta diciamo che possiamo dire che le città del nord Europa non hanno niente da insegnarci, perché quello che ho capito è che le proteste, diciamo, non sono solo italiote quando si tratta di introdurre misure del genere, non hanno fatto fatica, stanno facendo molta fatica anche all'estero. Guardi, tutti quanti hanno, tutte le città stanno prendendo una strada che è abbastanza simile, cioè la riduzione dell'uso dell'auto a favore del trasporto pubblico e di spazi di pedonalità. In tutte le città questo genera conflitti tra chi usa molto l'auto e quindi ha un'idea di città di un certo tipo e chi invece si aspetta una città che invece prende strade diverse. Grazie Francesco Maran. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.